buongiorno. Ciao Gianluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quando si rincorre bisogna essere molto bravi, avere molto equilibrio e essere molto lucidi, perché se incominciamo a guardare le squadre che stanno davanti diventa un problema. Diventa un problema perché al momento in cui te fai un pareggio sembra che ti scappi di nuovo l'obiettivo. Ho sbagliato per sbagliare, non perché lo dite voi, e non mi pento proprio, sono in riservo ormai. Io credo che nel nostro momento, che è innegabile che sia un momento particolare, non conta neanche tantissimo l'avversario. Non c'è più tempo da perdere, non abbiamo bisogno di fare risultati. E il fatto di affrontare una grande squadra significa che dobbiamo mettere in campo una grande prestazione. Non ci guarderemo indietro mai. Diciamo che è un periodo positivo, non è che abbiamo fatto, siamo ancora lontani dalle posizioni che ci competono, come ho detto diverse volte. Sicuramente il fatto di giocare di più quest'anno sicuramente qualcosina ti può aver tolto nel campionato, e io credo che ci siano però ancora tutte le possibilità perché questa stagione possa tornare a essere positiva. È chiaro che non abbiamo tempo da perdere, questo è sicuro. Non ce l'ha nessuno, non ce l'hanno soprattutto gli allenatori romani che nel giro di una ventina di ore, visto la congiunzione temporale delle partite, Lazio-Juventus 20:45 di stasera, domani alle 15 gioca la Roma con il Torino, ebbene ci sono i due allenatori romani che nel giro di una ventina di ore rischiano le loro panchine. Pioli questa sera, Garcia domani, contro due squadre di Torino, anche questo può essere curioso. 800240024 numero verde, Giorgio De Luca è il nostro autore, Giovanni Melchiori è in redazione, Andrea Roccabelli in regia, Giovanni Capuano qui con me. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. Chi rischia di più, Pioli o Garcia? Rischia di più Garcia secondo me, perché l'asticella è più alta delle aspettative, quindi per carità, Pioli evidentemente è in una situazione complicata, viene da un momento di crisi profonda e prima o poi lo Tito gliene chiederà conto, però secondo me quello che si gioca in una trasferta tra l'altro difficilissima come quella di Torino, Garcia, è capire che cosa può essere della stagione della Roma. Perché diciamo la verità, se quella di Barcellona alla fine potevi stare a discutere tanto avresti perso o no, se a Bologna ti puoi attaccare all'alibi di Rocchi e del campo, se con l'Atalanta puoi raccontare che siccome sei stato a Barcellona c'è stato uno shock, se tu non fai risultato nemmeno a Torino, intanto quelle davanti cominciano ad allungarsi, perché questo è un turno non come quello di settimana scorsa che accorciava la classifica, ma soprattutto credo che in testa ti comincino a venire mille tarli che questa è un'altra stagione buttata via. Che magari hai già, peraltro. Che magari hai già, perché i segnali sono, insomma, gli indicatori però, sono negativi. Però è una fortuna quest'anno. Quest'anno non hai la Juventus che sei sicuro che corre per ammazzare, certo, il campionato. Quindi vuol dire che con i tuoi 27 punti, quanti ne ha la Roma, hai ancora comunque la possibilità di fare corsa per lo scudetto. Può essere un aggravante, attenzione. Può essere un aggravante se non fai risultati. Se non fai risultati rischi l'effetto contrario, che è quello dell'implosione, perché ovviamente l'aspettativa è alta, quindi secondo me rischia Garcia, però si dice che in caso di sconfitta Pioli verrebbe allontanato questa sera, e io nella Juventus ci credo, nonostante le mille assenze, nonostante un centrocampo raffazzonato si rivede, ogni tanto ricompaiono alla Juventus, ad esempio in questo caso Asamoa, ma anche Padoin, ogni tanto anche Allegri è costretto a pescare dal ripostiglio o dall'infermeria, come invece Mancini fa per scelta. A proposito, l'Inter domani sera con il Genoa per cercare conferme alle buone sensazioni napoletane. Sì, partita insidiosa, perché fin qui in quelle gare come Inter-Genoa l'Inter ha vinto senza soffrire soltanto una volta contro il Frosinone, tutte le altre ha fatto fatica, e quindi la verità è che dopo aver visto a Napoli una bella Inter però in una condizione tattica particolare, torniamo a cercare di capire se l'Inter piano piano sta crescendo in quella che è la sua dimensione normale, cioè di squadra che deve fare la partita contro un avversario che magari arriva, si chiude, deve cercare di servire Icardi, ammesso che Icardi giochi, deve costruire più di 2-3 palle gol come ha fatto all'inizio di questa stagione, insomma deve giocare un po' meglio, e questa secondo me è una delle partite un po' più scivolose del fine settimana, che è difficile per tutte quelle che sono in testa, certo, perché anche Bologna-Napoli è complicata, non è una partita per niente semplice. Non è una partita semplice, però ho un'opinione un po' diversa sull'Inter, nel senso che tu hai ragione, gare di questo tipo le ha vinte tutte praticamente 1-0 di misura. Però a me quest'Inter dà la sensazione di non soffrire più di tanto queste partite. Cioè tu sai che in un modo o nell'altro la sblocca, è molto solida, un gol lo trova e non hai una grandissima paura, tu tifoso interista, di partite di però questo sono tipo quest'anno. Tante di queste partite sono passate per qualche numero di Handanovic prima dell'1-0. Gioca nell'Inter. Gioca nell'Inter, però questo significa che se tu cammini sempre sul filo, sempre il discorso che facevamo, se tu cammini sempre sul filo ti fortifichi, e quindi secondo me il secondo posto dell'Inter è assolutamente la fotografia di quello che è stato l'inizio della stagione dell'Inter fin qui, però è anche vero che camminando sul filo poi ti esponi al rischio di cadere ogni tanto, di scivolare, di fare mezzo passo falso, e attenzione perché queste sono le partite quest'anno che disegnano la classifica. Sicuro. Visto che in alto c'è equilibrio, fin qui il segreto di chi è in testa è stato perdere meno punti possibili in queste partite. Gli altri, ieri Allegri faceva il conto della Juve, diceva fra Frosinone, Udinese e Chievo abbiamo perso i 7 punti che ci separano dal Napoli. Questo è vero. E quindi anche un pareggio rischia di essere uguale a una sconfitta. E Allegri non l'ha detto, ma certamente lo pensa, prima o poi succederà anche agli altri. Di questo e di molto altro parleremo subito dopo il traffico. Arriva Pardo, arriverete anche voi, io suppongo, 800 24 00 24, numero verde, arriveranno i nostri ospiti, a tra poco. Tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. C'è chi fa anche domande da fantacalcio, e naturalmente vale, via WhatsApp 349-238-6666, visto che sono partite difficili, quelli che vedranno in campo le grandi. Per il fantacalcio meglio schierare Perin del Genoa o Padelli del Torino, domanda Fabri, io propenderei per Padelli. Padelli. Anche tu, sì. È arrivato, guarda caso, un portiere, Nando Orsi, ciao Nando. Ciao, buongiorno, buongiorno a voi. Per il fantacalcio meglio Perin o Padelli? Perine gioca contro l'Inter, mi sembra, sì. La Roma, ma lo sai. Nando, ti sentiamo male, proviamo a recuperare, a ripristinare la linea. Ciao Pierluigi Pardo. Come mi sentite? Bene, no? Bene, bene, bene. La qualità, la personalità. Perino Padelli. Ma io sarei per Padelli. Adesso ci invadono di domande sul fantacalcio. No, tra l'altro mi ricordo, devo fare la formazione, muoversi per la partenza, aspetta il momento. Ma io sono l'ultimo in classifica. Facciamo un po' di radio di informazione, radio utile. Attenzione, siccome c'è stasera Lazio Juve, immagino un po' in tutte le leghe bisogna mettere mano alle formazioni con 24 ore d'anticipo. Subito. È venerdì, non scherziamo. E io direi che tra l'altro la settimana prossima parte la Fantasy Game, vabbè, Fantasy Game della Lega ufficiale, della Lega, della Serie A, insomma una cosa molto bella, vabbè, ho dato una notizia che verrà presentata la settimana prossima. E invece ti volevo dire che io andrei su Padelli, ma insomma siamo lì, però perché l'Inter non è che segni tantissimo, però è vero che Padelli gioca in casa, quindi andrei su Padelli. Vabbè, allora siamo tutti d'accordo. Plebiscito per Padelli, capito? Fabri che ci scrivi via WhatsApp. Fabri Fibra. Nando, sei tornato? Eccomi. No, adesso scusate. Ti sento benissimo. Nando, però scusa, c'è una regola sola in questo programma. Scusami, io sono un po' paranoico. Il telefono deve prendere bene, perché se no uno non può. Ma tu gli credi? Nando, tu gli credi? Scusami, sono faccio ammenda. Faccio ammenda. Ma c'è ancora il Dolby Surround? Io sono la prossima volta mi faccio chiamare sul fisso, così non avete problemi. Esatto. Ma io penso. Ma non stare ad ascoltare Pardo, Nando. No, ma io voglio dirti questa cosa: sono talmente sfigato con i telefoni che il mio fisso a Roma, che abbiamo provato, sono stato tutte intere generazioni di tecnici di Radio 24, hanno provato. Pure il fisso c'ha problemi, è proprio un mio, cioè tipo la nuvoletta di Fantozzi, quindi. Però adesso come si sente, dai? Sì, no, adesso va bene. Chiuso il momento SIP. C'è ancora la SIP. La famosa SIP. Fantastica la SIP. E questo è un momento Madeleine, no? Tipo Madeleine, la memoria involontaria. Ho detto SIP, mi è venuto in mente quando ero bambino e andavo sul triciclo sul terrazzo di mia nonna. La parola SIP mi ha suscitato questo ricordo. Oppure il telefono grigio con la rotella. Il duplex. Io ce l'avevo, il mio padre ce l'aveva il duplex. Scusate, spieghiamo, perché noi siamo pieni di giovani, sia attività che tutti convocati, abbiamo un sacco di gente giovane, nuove generazioni, il futuro del paese. Cos'è il duplex? Orti, spieghi. Il duplex era quel telefono che tu avevi in concomitanza, insieme a quello dell'appartamento sopra o sotto, e quindi praticamente quando quello sopra telefonava tu sotto non potevi ricevere telefonate, e quindi le maledizioni delle volte quando tu avevi la prima fidanzatina che ti doveva telefonare e non riuscivi a telefonare perché quello sopra telefonava che portarti che aveva o una fidanzata pure lui oppure la stessa, quindi capito? Prenderei per la stessa magari, perché veniva più comodo. No, ma sai, lo veniva... sappiamo che la fidanzata era lo stessa, insomma, cioè per motivi di sensibilità, poi ci sono gli anni dell'austerity, insomma il duplex, le fidanzate giustamente contribuivano al risparmio fidanzandosi con persone che avevano il telefono in comune, ma al di là di questo è impressionante. Ragazzi, questa roba qui, se volete, allora vi do. Chiamiamo Paglierini subito. No, ma vi do. Speciale. Ragazzi, vi do un'alternativa. 30 anni fa c'era sta roba. C'era questa roba. Vi do un'alternativa: o ci mettiamo a parlare delle targhe alterne, o parliamo di calcio. No, oggi a Roma dai. Ma che è successo a Roma? Scusa, io infatti sto a casa perché c'ho la dispari, e che capisci che non si può. Io a Roma c'ho la dispari, ma Euro 6 è roba. Lo so, a te Pierluigi stai avanti. E comunque a Roma, come al solito, fanno le cose un po' come si dice. Ma c'è un traffico pazzesco, ma a parte quello, ma allora stasera c'è la partita, c'è il blocco degli autobus. Oggi c'è anche il blocco degli autobus, lo sciopero, quindi autobus. Targhe alterne, lascia la partita. Grande, uno spaccato dell'Italia del 2015, un o forse del 1975. Il vero dramma, scusa, è che è un genio, ma mi pare di aver capito che voi romani non potete più prenderla col sindaco. No, adesso. Che sai, prima era comodo, no? C'hai ragione. Esatto. Lo c'hai vedi, ragione. Ecco Marino. Però no, a parte tutto, Roma, sì. Non lo vedi, è incredibile, perché l'Italia, poi alla fine, al di là di tutte queste sfighe clamorose, di questi scandali, di queste tristezze che abbiamo, che sono veramente cervicali da terzo mondo, però poi alla fine dici, vabbè, va bene uguale. Io almeno dico così, poi è chiaro che ho imprecato dal traffico e anche, devo dire la verità, che ho anche chiesto a De Luca 10 minuti in più per mangiare una cosa, perché sono arrivato a casa alle 13.58, per cui sembrava veramente brutto. Era quarto d'ora accademico. Comunque sono le 14.24, 30 secondi, l'unica informazione di calcio che abbiamo dato è stata quella sul fantacalcio. Su Padelli. E continueremo così. No, a parte... No, però possiamo, andiamo un'altra legata al traffico. Questa sera Lazio-Juve, sì. Perché c'è questa situazione che riguarda sia Lazio che Roma. Ecco, lì il traffico non c'è praticamente, perché c'è questo paradosso assoluto che a Roma ci sono giustamente programmi in radio, in televisione, la città vive per il calcio, però lo stadio è vuoto da una parte e dall'altra, per motivi anche insomma specifici legati insomma a proteste, però sta di fatto che lo stadio è drammaticamente vuoto come mai era successo. Guarda, paradossalmente questa sera ci potrebbero essere più tifosi juventini che laziali. Sì, E lo dico con molto rammarico, perché lo dico con molto rammarico adesso parlando seriamente un attimino, perché perché una partita come Lazio-Juve io me la ricordo con degli stadi pieni, 80.000, 70.000, e invece adesso c'è veramente un grande problema di ambiente qui a soprattutto la Lazio, che ha fatto un po' disamorare quelli che erano i tifosi più accaniti, e la frangia dei tifosi più accaniti, e stasera c'è il rischio che ci siano 10.000 juventini e 7-8-10.000 laziali. Insomma, per una partita di questo tipo, insomma, esatto, che normalmente esatto. Riempiva l'Olimpico. Ma ci sarebbero le condizioni in caso di sconfitta per licenziare Pioli, secondo te, Nando? Guarda, la voce gira qua, però io penso che per questa piena società che licenzia pochi allenatori, e non soltanto per questioni tecniche. Perché e poi li deve pagare anche. No, hai detto tu, io non l'ho detto. Sì, e non penso che possa essere soltanto colpa di Pioli. In casa Lazio c'è un ambiente che non è soltanto in crisi a livello tecnico, c'è una crisi a livello ambientale di tifosi, c'è una crisi secondo me societaria che anche non è riuscita ad arginare certe situazioni che si portano dietro dall'inizio del campionato, ma anche della Supercoppa italiana a Pechino, perché è inutile stare qui a ridire che Biglia, la fascia di capitano, il mal di pancia perché se ne vuole andare, i rinnovi contrattuali che non ci sono stati, Keita che voleva andare via, e insomma ci sono tantissime cose, e si è arrivata a questa situazione dove Lazio-Juventus è una partita che potrebbe anche decidere qualcosa, però io penso che Pioli, a meno di rovesci clamorosi, rimanga al suo posto ben saldo, anche perché noi non possiamo dimenticare quello che ha fatto lo scorso anno, quindi se non era un fenomeno quest'anno non è un brocco adesso, c'è sempre una via di mezzo. No, si tratta di capire se è un fenomeno o un brocco anche Felipe Anderson, che è tornato in mezzo alla quello è un altro problema, perché i giocatori più importanti sono quelli che hanno dovuto di più, e quindi quando tu hai, se tu togli Higuain al Napoli è ovvio che ha grandi giocatori, però non incide, il Napoli non ha l'incidenza di vittorie come potrebbe avere con Higuain. È ovvio che se tu Felipe Anderson non c'è, perché è scomparso praticamente, Candreva e Piglia, e insomma adesso si è fatto male lui, cioè si è fatto male in maniera incredibile, ragazzi, cioè io non si era mai visto come io ti dico questo, può sembrare un paradosso, ma io credo che Lotito abbia sbagliato, perché lui doveva fare una cosa, adesso è facile dirla dopo, doveva vendere Felipe Anderson e con quei soldi provare a ricostruire e a rimotivare la squadra. La Lazio ha fatto un campionato incredibile l'anno scorso, a me l'idea che Pioli possa essere esonerato mi sembra assurda, perché la Lazio è stata la grande rivelazione del campionato scorso, è arrivata terza, ma insomma negli ultimi tre mesi ha avuto un passo che né la Roma, certo, né Napoli hanno avuto, certo, quindi questo è indiscutibile, certo. Ha giocato anche un grande calcio. Però quest'estate, cioè, manca sempre il passo in avanti, un po' perché lo Tito prima di fare questo passo ci pensa mille volte, e poi ti dico la verità, è anche vero che rinunciando ai soldi l'estate prima per Candreva, l'estate per Felipe Anderson, in realtà insomma lui un sacrificio economico lo fa, cioè questo gli deve essere riconosciuto. Questo è chiaro, il sacrificio economico lo fai non soltanto comprando, ma anche evitando di vendere i migliori, ma probabilmente ha scommesso su Felipe Anderson e la scommessa non sta pagando i dividendi. Voglio dirti, la Roma in questi anni ha rimescolato spesso, cioè ha comprato i giocatori, quindi ha fatto innamorare la piazza, Diego, Salà e tutto il resto, però ha anche venduto, ha anche monetizzato, e paga un po' tutto questo, perché gioca uno come Rudiger, con tutto rispetto, al centro della difesa, è perché Marquinhos e Benatial sono stati venduti a carissimo prezzo, ma sono stati venduti. Invece Lotito ha preso una strada completamente diversa, che è quella del mantenimento dei crack, che sono stati soprattutto Candreva, Biglia e Felipe Anderson, però la sensazione è che questo tipo di sacrificio economico non sia stato percepito dalla piazza come un reale sacrificio economico, comunque ci si aspettasse qualcosa di più per provare la scalata alla Champions League. Io credo che il peccato originale della stagione della Lazio sia quello. Esattamente come un anno fa il peccato originale della stagione del Napoli era stata l'eliminazione con la Tralicchia. Guarda, io ti dico una cosa a proposito di Lotito che le riassume tutte, poi saluto Nando Orsi. Penso sia stato un tweet di stamattina che mi ha letto Giorgio De Luca. Elezioni del presidente federale dell'Argentina, della Federcalcio Argentina, 75 votanti, il risultato è 38 pari, e qualcuno ha detto ma ha votato anche Lotito? Vi dico solo questo, vi dico solo questo. Nando, una battuta sola, chi vince stasera? Io vedo un 2 tendente al pari, un 2 tendente al pari, x2, giochiamo la 2x 2x. Grazie Nando. Grazie a voi ragazzi, alla prossima, ciao Pier. Ciao. Allora, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, state qui, sentiamo la borsa, torniamo. Ci sono Giovanni da Latina e Gennaro dalla provincia di Napoli già in linea. 800 24 00 24, il numero verde, non so se vorranno parlare di duplex o di targhe alterne. A dopo. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presento. Tutti convocati. Allora torniamo con Pierluigi Pardo, con una buona comunicazione telefonica, devo dirlo, anche se gli ascoltatori sono cattivissimi, Chicco scrive non si capisce una mazza dal tuo telefono, ma oggi non è vero, difendo Pardo. C'è chi scrive che parlate di targhe alterne, che ne capite di più, sempre molto carini. 349 238. È vero, noi abbiamo fatto un master di targhe alterne, quindi, sì, quindi è vero. E quindi è totalmente vero. Giovanni Capuano invece più per il calcio, per le targhe quando alterne. È che affrontiamo il tema degli 80 punti di Allegri? È il tema della mattinata di Capuano, che ha fatto, no, che ha fatto tweet, mi è arrivato tweet, Telegram. Tema, devo dire, molto interessante. Prego. No, ci sono gli amici da casa, dai. Giovanni. Vabbè, tra poco gli 80 punti, prego. Il Cobas. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono, mi considero uno sportivo. E vorrei chiedere a tutti. Questa premessa di solito è pericolosissima. È molto pericolosa. Lo dico per esperienza. No. Io chiedevo a voi giornalisti della carta stampata, della radio, della televisione, e principalmente all'ospite che lei ha avuto martedì nella sua trasmissione. Non ricordo il nome, chiedo scusa, io faccio parte di un altro tipo di mondo, sì. Però ascoltavo con molto interesse, perché lunedì ho visto una partita, quella del Napoli con l'Inter, e è stata fatta una considerazione, io ritengo molto parziale nei confronti del Napoli, perché il primo tempo è stato dominato completamente, almeno quello che io ho visto, dal Napoli, e poteva farne anche tre. E invece è stato tenuto molto in considerazione gli ultimi 20 minuti, che sicuramente potevano dare la parità all'Inter, ma che io ritengo che complessivamente il Napoli abbia dominato. Logico che se lei perde 2-0 una partita ed è in 10, o dà tutto quello che ha, ed è giusto che sia così, perché tutto sommato questa gente viene elargita in questo senso, o eventualmente si arrende. Non si sono arresi, hanno reso la partita ancora più bella, ma le considerazioni che l'Inter ha giocato meglio perché sono stati presi solo gli ultimi 15-20 minuti, credo sia un giudizio parziale. No, non c'è niente di cui scusarsi. Non ricordo che qualcuno l'abbia detto lunedì. No, c'era Beppe Bergomi, c'era Sollazzo. Ma lì c'ero io. Con chi abbiamo parlato? C'era Pardo. Tipo indovina chi, è tipo indovina chi, no, quel gioco. Indovina chi. Ma si ricorda, aveva i baffi, era di dove era napoletano, era Giovanni, di Latina. Forse Luca se lo ricordo. Io comunque sono d'accordo con lei, cioè. Ma l'abbiamo detto Napoli, anche ieri, insomma. Sì, l'abbiamo detto anche ieri. Napoli penso che abbia vinto e che abbia preso i tre punti, li abbia anche meritati, e sicuramente facendo una valutazione numerica su 90 minuti di partita, diciamo che per almeno due terzi, per almeno 60 minuti ha dimostrato di essere nettamente superiore all'Inter, quindi io sono d'accordo anche con il risultato finale. Detto questo, credo che non sia una lesa maestà per gli amici da Napoli dire che io non mi aspettavo, e quindi sono curioso di capire perché l'Inter, che teoricamente era spazzata via dalla gara 10 contro 11, sotto 2-0, e questo tipo di sensazione corrispondeva fra l'altro a quello che io dico da due mesi, cioè che il Napoli mi sembra più forte di tutte le altre, come abbia fatto l'Inter negli ultimi 20 minuti sotto di un uomo, a fare il 2-1, a sfiorare il 2-2. Che evidentemente questo è una squadra, perché evidentemente questo, no, questo c'è il tema, perché quindi, però, è ben allenata, sta bene anche sul piano fisico e queste numericamente, sono... numericamente il Napoli ha meritato, non c'è sta meritato. L'abbiamo detto anche ieri, l'abbiamo detto anche ieri, non... anche con Ciro Ferrara. È tipo il giorno della marmotta, della nostra vita. Ogni posso... giorno ripetiamo perché Pier, qualcuno dice... sì. Posso dirti una cosa? Ma sai che cos'è la cosa che da lunedì sera mi colpisce? Questo modo che hanno i tifosi del Napoli di vivere male questo momento bellissimo, cioè sono arrabbiati un po' per tutto, sono arrabbiati per la polemica arbitrale fatta da Mancini che comunque non riguardava il Napoli, sono arrabbiati se qualcuno magari ha esagerato dicendo che l'Inter ha giocato abbastanza bene, anche se io non ho letto da nessuna parte che l'Inter ha giocato meglio del Napoli, se devo dire la verità. Io non l'ho letto, ho letto in tanti dire esce bene anche l'Inter, esce rafforzata, questo certo l'abbiamo però fatto esce anche seconda noi in classifica, eppure la vivono male. Secondo me questo può essere un limite, cioè se il Napoli pensa di poter vivere i prossimi 7 mesi sulle barricate così come ambiente, io non dico come squadra, come tutto ciò che c'è intorno a questo meraviglioso sogno di poter vincere lo scudetto, ecco, secondo me alla fine rischiano di logorarsi un po'. Sì, yes. Sì, ma io questo beh, andiamo a Napoli, essere... andiamo a Napoli, Gennaro. No, Gennaro, provincia di Napoli. Poi un commento su questa frase di Allegri. No, è una crono da Juve, 80 punti per lo scudetto. Sì, la sento, Gennaro, dica. Allora, salve, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Voi complimenti per la trasmissione. Allora, facciamo delle precisazioni proprio inerenti a quest'ultima parte dell'argomento. Allora, l'Inter se pareggiava non rubava niente. Quindi io prima da tifoso del Napoli sono sportivo. Allora, così dobbiamo essere tutti quanti noi. Vedere le cose con molta distanza, no? Con molto distanza. Allora, l'Inter ha fatto gli ultimi 15 minuti da vera squadra, era in 10, ci ha messo in difficoltà, ed è vero, quindi se pareggiava non rubava niente. Quindi onore all'Inter. Sì, ma non ha rubato niente neanche il Napoli, adesso non esageriamo. Fino all'ultimo, sicuramente, una squadra tosta, ben organizzata. Però nessuno ha fatto una considerazione, neanche Pardo, mi raccomando. Allora, il Napoli non aveva né Mertens e né Gabbiadini. Attenzione, il Napoli di solito dopo i 60 minuti cambia Insigne, cambia non ha giocato 6 volte. Mertens e Gabbiadini erano potevano essere decisivi. Il motivo per il quale l'Inter poi ha avuto questa fiducia, acquistata questa fiducia, è stato proprio questo. Quando lo abbiamo fatto i cambi Insigne e Carione, abbiamo messo Maggio e Lopez, quindi la squadra si è abbassata molto. L'Inter, quando ha visto che in attacco non c'era quasi più nessuno perché Higuain era stremato, ovviamente ha preso più coraggio ed è andato avanti. E quindi io penso che se il Napoli aveva Gabbiadini o Mertens, sicuramente ci poteva scappare pure il terzo gol. Posso dire una cosa? Mi sorprende della marmotta, che, ragione, abbiamo che già uno detto attento questo come te, Pier, non l'avesse detto. Ma l'abbiamo abbiamo già detto, abbiamo detto anche questa. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno. C'è qualcos'altro che nessuno ha detto su sta partita, giocato ormai una settimana fa? No, io ho pensato solo che negli ultimi 20 minuti il Napoli fosse un po' stanco, così come avevo visto un po' stanche le squadre che avevano giocato nelle coppe. E sì, poi sì, dopo la pressione che c'è a Napoli come a Roma, perché sono squadre che non sono così abituate a vincere, beh certo, può anche questo influire sulla testa dei giocatori. Sì, comunque sì, metterei la firma per rivedere altre partite come Napoli-Inter, ma due scherzi, grandi squadre. Ma scherzi, magari erano un po' stanco anche perché l'Inter è una squadra che ti stanca e ti stressa anche fisicamente. Sentiamo un Garcia di oggi, pre-partita di Torino-Roma, poi ci fermiamo per il traffico e poi torniamo, chiacchieriamo insieme con Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo e Roberto Rengo. Come si esce ora da questo momento? Grazie. Si esce lavorando durissimo come abbiamo fatto da domenica e si esce facendo di tutto per fare un risultato subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta convocati. Allora, prima di discussione sulla Roma, vorrei che Giovanni Capuano lanciasse anche il tema di 80 punti per lo scudetto, come ha detto Allegri. 80 punti che forse ha detto Allegri, perché poi in realtà ci sono due interpretazioni, però si sta facendo strada quest'idea che siccome è un campionato equilibrato in testa si possa vincere con pochi punti. Adesso da ieri c'è questa cifra, quella degli 80. Allora io sono andato a rivedere gli 11 campionati a 20 squadre con i 3 punti, quindi dal 2004 a oggi. Il punteggio minori due volte è stato 82 punti, però di media il campionato si vince con 84-85 punti, anche togliendo diciamo le stagioni un po' anomale, i 102 punti di Conte, i 97 dell'Inter di Mancini post triplete, e il Napoli e Inter stanno viaggiando esattamente a quella velocità. E secondo me non è tanto il tema che in testa ci sia più equilibrio, il fatto è che quest'anno, come è tendenza nelle ultime due o tre stagioni, le ultime cinque, quindi diciamo le squadre più deboli della Serie A, fanno pochi punti rispetto a 3-4 anni fa. Nella media hanno perso una ventina di punti a campionato e quest'anno sta andando esattamente così. Quindi se io dovessi scommettere un euro che non ho, ti direi che il campionato si vince comunque a 85 punti, non a 80, e significa che per la Juve sono veramente tanti da fare in quella cronometro che Allegri ha in testa per arrivare a maggio all'idea di poter vincere lo scudetto. Roberto Renga e Pierluigi Pardo, siete d'accordo, Roberto? Ma sì e no, perché è evidente che questo equilibrio comunque porti a una spartizione di punti in testa. Mentre l'anno scorso i punti li prendeva solo la Juventus, quest'anno le prendono un po' tutte. E con la spartizione di punti è vero che a 84 di solito si vince, però si potrebbe anche scendere. Sì, Pierluigi? Sono d'accordo, io per me capuano da queste cose qui è veramente, cioè io decido, cioè è come Bellinazzo sulle cose economiche. Ho smesso, sono d'accordo, 85, voglio fare solo una piccola sottolineatura, cioè il fatto che secondo me questo livellamento, che è evidente, non è un livellamento verso il basso, come vanno dicendo molti, perché al di là della Juve di Conte, che è veramente l'eccezione che conferma la regola, poi per esempio l'Inter di Mancini, cioè gli anni post-Calciopoli, che sono stati i primi anni in cui sono stati livelli di punteggio clamorosi, erano anni in cui veramente c'erano delle squadre che erano abbastanza impresentabili. Oggi secondo me invece assistiamo ai primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire, come direbbe Venditti, no, ai primi vagiti di una diciamo risurrezione del calcio italiano, ancora assolutamente incompleta, ancora provvisoria, però oggi secondo me, per dirti, la Fiorentina, quello che sta facendo la Fiorentina, la crescita del Napoli, il fatto che la Roma con tutti i suoi difetti comunque esiste, c'è, insomma, secondo me non è un livellamento verso il basso, e vai anche in dei posti, per esempio a Sassuolo puoi perdere dei punti, col Torino puoi perdere dei punti, insomma secondo me non è un livellamento verso il basso. No, ma poi ci stiamo divertendo, quindi questo è quanto. Roberto, invece, Torino-Genoa domani? No. Torino-Roma domani. No, a me è impressionato quello che ha detto Garcia. Sì. Dice, come si supera questo momento? Dice, allenandosi fortissimo, così come abbiamo fatto da domenica. Io ho letto anche Burdis, come da domenica. Leggevo anche dichiarazioni di Burdis, a Roma si lavora poco, ma comunque questa è un'altra storia. Ma sai, prima non di Burdis. Me ne ricordo, forse aveva ragione. Però devo dire che quest'anno la Roma ha preso pure due preparatori nuovi, no? Che conosce Pallotta, che io spero che siano bravi. Insomma, io so che lavorano. Ma ha fatto impressione, però, perché da domenica lavoriamo fortissimo. Io spero che lavorino sempre molto forte. Bene, avrebbero bisogno in questo momento. La notizia del giorno è che è arrivato Pallotta. Pallotta finalmente è arrivato. Ma la notizia è che anziché andare a vedere Roma, che in questo momento oggi è infrequentabile, come sapete, per mille motivi, o la Roma, che è poco frequentabile anche la Roma di questi giorni, è andato in Umbria a riposarsi. Ecco uno che ha capito tutto. È andato a fare meditazione per poi magari prendere delle decisioni, no? Nella mia terra, quindi si medita moltissimo. Sì, comunque è stata la settimana del casino delle carote, poi vediamo domani con il Toro. Pierluigi, Pallotta che va a fare meditazione per cosa? In caso di sconfitta domani, per prendere decisioni importanti o per ricompattare il gruppo? Beh, la meditazione è una cosa, come direbbe Mughini, talmente importante, talmente profonda che sarei un minchione nel considerarla. Ecco, quindi voglio dire, non lo so perché andare a fare meditazione. Certamente in questa squadra, in questa società che ha dei pregi secondo me importanti dal punto di vista del marketing, è cresciuta molto in questi anni, non è che adesso improvvisamente, siccome perde in casa con l'Atalanta, la Roma società, la Roma progetto stia diventando una cosa brutta. Però sicuramente dal punto di vista tecnico c'è un problema, e questo problema è legato alla mancanza di una presenza reale e continua della società. E anche, lo diciamo qualche giorno fa, anche il dirigente di riferimento, che è Sabatini, che è probabilmente il miglior summer scout che c'è in Italia, uno dei migliori al mondo, ha però secondo me altre caratteristiche, più da talent scout che da uomo d'ordine che manager di tutto il mondo. Quindi questo secondo me è un problema, per cui io credo che dopo aver meditato tutto il tempo possibile, che sappiamo è una cosa fondamentale per corpo e spirito, poi insomma, Pallotta faccia anche un giro a Trigoria e faccia sentire che la società c'è, che esiste, così come c'è, e lo dico veramente senza ironia, su mille questioni, perché sinceramente insomma non è che la Roma era una società abituata a vincere il campionato tutti gli anni. La Roma di questi anni sta crescendo, ha ottenuto dei secondi posti che erano il massimo risultato possibile contro la Juve supersonica, quindi Champions League, quindi crescita economica, plusvalenze che sono state fatte dallo stesso Sabatini, qualche errore ma ci sta, progetti importanti, merchandising, una grande multinazionale finalmente per vendere le maglie, insomma ci sono dei segnali positivi dal punto di vista diciamo aziendale, però in campo serve secondo me una figura un pochino più resta il fatto che è bravissimo, chiaro, serve un altro profilo. Resta il fatto, Giovanni, che domani la Roma sarà sorvegliata speciale, perché sì, un'altra non la puoi staccare. E comunque ha ragione Roberto Renga, quando un proprietario torna diciamo in azienda, e mancava da quanto, 5 mesi credo, 16 giugno fosse l'ultima volta che era stato a Roma, sì, a giugno, e lo fa, e il suo primo pensiero non è andare a cercare di sfruttare il più possibile le ore che resterà in Italia, qualche riflessione evidentemente viene fatta, e secondo me è una riflessione che va fatta, perché alla Roma manca una figura, perché da giugno Garcia e Pallotta non si vedono, e quei preparatori atletici di cui prima parlava Roberto Renga, che evidentemente non hanno fatto correre granché la Roma, erano preparatori che erano evidentemente un segnale di sfiducia di Pallotta a Garcia, no? Tu la leggi così? Roberto, penso che non ci sia dubbio. Volevo dire che il fatto che Garcia sia stato commissariato più o meno a giugno da Pallotta, ebbene, questo ha tolto potere all'allenatore, ha tolto potere però a tutto l'ambiente, perché voi sapete che i giocatori sono svelti, capiscono al volo. Ma le certo, è così. Da allora Garcia per loro è un allenatore di passaggio. Bravo, però esatto. Il problema è che non c'è un'altra figura. Non c'è un'altra figura che possa sostituire Garcia o il grande allenatore, faccio per dire Capello, Mancini o Sarri, chi per loro. Non c'è, perché il presidente non si vede. E il presidente poi le sue decisioni le deve prendere per sentito dire. C'è delle persone che lui ha mandato qui, Zanzi, per dire, esperto di pallamano, che gli racconta cosa succede nel calcio romano. Tutto molto complicato. Secondo me i problemi della Roma, sempre che ci siano problemi, perché possono essere superati ovviamente, ma i problemi attuali della Roma sono legati a questa strana situazione. Sì, mi sembra che la fotografia sia perfetta. Grazie Roberto. Grazie a voi, buon lavoro. Okay. Come hai detto tu, Pierluigi, la fotografia di Renga è perfetta, con il peccato originale di un Garcia confermato all'inizio dell'anno sotto condizione, e senza poi nessuno che potesse sciogliere quella condizione, per l'appunto. Sì, perché insomma, di Garcia si è parlato molto in estate, ma giustamente, poi io ribadisco, credo che si debba sempre relativizzare le situazioni, altrimenti poi si caccia via Ranieri e lo si trova in testa alla Premier League, si caccia via Luis Enrique e lo si trova a fare il miracolo con Barcellona. Certo. Ciao Pier, ci sentiamo domenica. Ciao. Ciao. Dunque, dobbiamo fermarci per il GR, Giovanni stai qui, torniamo dopo, parlando anche del casino del Real Madrid, che è molto divertente, tra le altre cose. Buona giornata. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Convocati. Tutti convocati all'800240024. Convocato Giovanni Capuano oggi con me. Allora, diamo una mano agli amici del Fantacalcio. Cioè? Mancini ha appena annunciato metà squadra per la partita con Genoa. Metà? Ha detto che giocano. L'altra metà? Prendete nota. Giocano Handanovic, Miranda, Muriglio, Felipe Melo e Jovetic. Poteva arrivarci anch'io, eh? Senza la conferenza. Su Jovetic qualche perplessità poteva però, esserci, sai, eh? è stato tenuto fuori a sorpresa con il Napoli. Miranda e Muriglio, chi li muove più di lì insieme ad Handanovic. L'altra metà, sì, scusa, Felipe Melo rientra, l'altra metà a rate, e capiremo anche cosa farà di Icardi. Perché dovesse giocare Icardi con Jovetic che gioca, magari potrebbe restare fuori gli Aic, che però in questo momento è quello che è più in condizione, Napoli. Oppure potrebbe significare che Jovetic gioca a falso 9 e sta fuori Icardi. Senti, ma la seconda metà domani. Ma come domani? Domani intorno alle 20. Domani intorno alle 20. Sì. Abbiamo anche un audio di Mancini che ha appena parlato, oltre ad aver annunciato la prima rata della formazione anti Genoa. È come il mutuo. Ha detto anche qualcos'altro. Io credo che alla fine Mauro farà i gol che ci serviranno, in questo momento magari ha un po' più di difficoltà, ma non è che sia una grande preoccupazione. Capito? Icardi sui gol li farà, eccetera. Questa non è una rata, però. Non ha detto che gioca. Questo credo sia la chiave per capire cosa sarà la seconda parte della stagione dell'Inter, che evidentemente non può fare a meno di Icardi, che l'anno scorso è stato il capocannoniere. Cioè, nessun allenatore sano di mente potrebbe pensare di fare a meno di Icardi, che va integrato, è in difficoltà, evidentemente, ha meno punti di riferimento, meno coinvolto. Però credo sia il compito numero uno che ha Mancini nella sua agenda delle cose da fare, cioè trovare il modo di far funzionare Icardi insieme agli altri, perché se così fosse, per paradosso, la lezione, io so che adesso Giorgio De Luca si arrabbia, però l'eredità che mi porto via da Napoli-Inter è che il Napoli oggi è la squadra più forte, gioca un gran calcio, ma forse è anche all'apice di un momento di condizione straordinaria, non so quanti margini di crescita abbia. Ad esempio mi viene in mente che se Mancini fa funzionare Icardi, fa funzionare Kondogbia e Perisic, i margini di crescita dell'Inter sono sicuramente maggiori sono di quelli superiori del Napoli, non a rate ma in saldo, non in saldo, insomma, in una botta sola. Paolo D'Ascoli Piceno e Ugo da Salerno, buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Mi piacciono le rate? Guardi, lasciamo perdere, lasciamo perdere le rate. Però a proposito di quello che diceva Capuano della serie, ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Il mio piccolo Ascoli con Higuaín davanti sarebbe primissimo in classifica in Serie B a metà classifica forse in Serie A. Ragazzi, la vera differenza la fa questo giocatore che domenica sera ha scardinato, ha spaccato il primo gol, ha spaccato sul secondo gol, poi quando è scesa la squadra si è vista di che pasta il Napoli, sicuramente più equilibrata di quella che aveva prima con il vecchio allenatore, sicuramente, ma però non prende mai gol, è vero, è molto più equilibrata. Poi Amsic è tornato ad essere il giocatore che ci eravamo dimenticati nell'era Benitez. Jorginho è una chiave di questa squadra e secondo me dovrebbe essere anche della nazionale. Allan l'anno scorso non c'era ed è un giocatore fondamentale, insomma ci sono tanti motivi. Detto questo, a centravanti invertiti, cioè Inter e Napoli, l'Inter avrebbe 7-8 punti di vantaggio in questo momento, forse. Sì, però è riduttivo dire che dietro il primato del Napoli c'è solo Higuaín, c'è anche Insigne ha già fatto, e siamo al 4 dicembre, il record di gol in una stagione di Serie A, è l'uomo che ha dato più assist in tutto il campionato, 13, e siamo alla 14ª giornata, quindi è evidente che ci sono dei picchi di rendimento in questo momento, però è anche evidente che la cosa che balza più all'occhio in assoluto del lavoro di Sarri è l'organizzazione della fase difensiva. Sicuro. Vi ricordate cos'era il Napoli e che cosa si diceva di Koulibaly e Albiol l'anno scorso? Ci sarà un po' di merito di Sarri se ha fatto quello che ha fatto. Hanno cercato di venderli anche in Qatar, in Armenia, in Kazakistan, senza riuscirci. No, ovviamente sto forzando, però a Napoli non li volevano più vedere quei giocatori. Cosa mi sta indicando? Una grafica? E anche loro trattano il tema degli 80 punti. Scudetto quota minimo 82, quota massima 102, media punti scudetto 87,9. Così senza nei campionati conosco quei numeri. Ugo Salerno, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Niente, diciamo, sono un po' arrabbiato, sarò breve e conciso. Dica. Quest'anno che gira tutto storto, parlo della Salernitana. La cosa che mi ha fatto anche più male, anche non solo un piangino, perché nel calcio ci può essere l'errore arbitrale, è il modo come l'arbitro ci hanno trattato alla Spezia, partita buttata via in Coppa Italia, ovviamente forse perché siamo anche scarsi, giustamente, però scelte arbitrali proprio assurde, nel silenzio totale. Poi lo Tito che si dimentica che la Saitana gioca di pomeriggio, a prescindere da questo e poi chiudo, sì. Dall'inizio del campionato, una domenica sì e una domenica no, errori enormi, ma enormi con la maiuscola, nel silenzio. Allora molti come me si domandano, cioè, ma lo Tito in questi casi non dice niente? No, e poi una cosa, errori arbitrali enormi. Dice, io non vorrei credere nella malafede. A questo punto voglio credere che gli abiti sono scarsi, perché se no c'è malafede. Per colpire lo Tito colpisce la Salernitana, perché è assurdo quello che sto vedendo dall'inizio del campionato. Niente, potrei anche non rispondere perché questo è uno sfogo. Però Salerno merita altre attenzioni, altri comportamenti. Vabbè, giriamo tutto allo Tito, perché che però non è sono impegnato con i torti arbitrali della Lazio. È impegnato con i torti arbitrali della Lazio e poi è un po' disattento probabilmente. E poi in per andare momento. A vedere la Salernitana ha raggranellato una quantità stupefacente di contravvenzioni, come ben sai. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Oggi puntata spettacolare. Ma tu ce l'avevi il duplex da bambino? Il duplex? Sì. No, ce l'aveva però un mio amico, Marco Sforza. Mio compagno di classe Marco Sforza c'era il duplex, quindi quando lo chiamavo per capito, la versione, stavamo lì, magari lui dava la versione 30 minuti, 40 minuti, la vicina si avvelenava, me lo ricordo questo. Sì. Vedi? Le targhe alterne te le ricordi? Come no? Beh, anche io ho fatto anche l'Austerity 74, le domeniche, io c'ho una certa età. Sì, anche noi Filippo. Sul passeggino, l'Austerity. Targhe alterne, quello che vuoi, perfetto, le domeniche del 74, domeniche in bicicletta, molto bello, giro per Roma, ricordo benissimo. Senti, targhe alterne a Madrid, non so se ne hanno fatte. Adesso abbiamo ci sono un po' di targhe alterne, un po' di misure anti-smog, perché qui è bellissimo. Abbiamo un cielo ingannatore, sempre azzurro, azzurrissimo, però in realtà uno smog incredibile, però che non si vede, ma c'è. Los una Angeles, nube. Praticamente. Sì, però c'è sempre blu, molto bello, sì. Il momento comico del Real si arricchisce di un nuovo caso, no? È meraviglioso, peccato che questi giorni appunto io sono in ferie, quindi non posso prendere in giro come si dovrebbe la Casa Blanca. Sì, il coro più significativo è Benitez guarda su Twitter. Sì, quello lì, allora lo raccontiamo, raccontami questa cosa, da dove si è originato il coro. Allora, una premessa, Cadice non è un posto così. Siamo in Andalusia, sono tra i tifosi più simpatici che ci sono in Spagna e hanno, diciamo, a Cadice c'è la passione per la Cirigota, che è una specie di filastro, cioè gruppi di gente così, di amici che si mettono insieme e improvvisano filastrocche, canti, cose, no? Quindi c'è lo spirito giusto nello stadio, a Ramon de Carranza. E a un certo punto si diffonde via radio la notizia che Cheryshev, che ha segnato il gol, in quel momento il Madrid sta vincendo 1-0, gol di Cheryshev, il tal Denis non poteva giocare perché era squalificato. Per cui dal pubblico cominciano a prendere in giro, cantano cori su Cheryshev e poi cominciano a dire a Benitez di andare su Twitter, perché su Twitter ci sono notizie. Però attenzione, perché poi continuano tutto anche nel secondo tempo, questo torneremo sul caso Cheryshev. E a un certo punto, per me è geniale, altro coro geniale, e gli cantavano Benitez, metti De Gea. Che ovviamente anche qui ricostruiamo, per chi non è così attento, portiere Manchester United, che il 31 agosto non è arrivato al Real Madrid, sempre per un fax, diciamo maledetto fax, che non è arrivato dal Manchester United, quindi è rimasto là, è saltato il trasferimento, altra figuraccia in mondo visione. E quindi al Carranza gli gridavano, metti De Gea, Benitez, metti De Gea. C'è aria da zero titoli quest'anno alla Casa Blanca. Esatto, però la cosa più bella è che ieri poi, ovviamente anche insomma, pur riposando, ho detto io un Florentino qui vicino casa non me lo perdo, e sono andato al Bernabeu a sentirmi Florentino Perez. Ed è eccezionale, come, cioè, questi cercano di rigirarsi il regolamento, ne raccontano solo una parte e dicono che no, che loro no. Comunque la cosa bella è che loro non sbagliano niente, è come Fonsi, ti ricordi, no, che non sapeva chiedere scusa. questi non sanno dire che si sono sbagliati, cioè voglio dire che è palese, il ragazzo era squalificato, l'avete fatto giocare, non lo sapevate, e si attaccano dei cavilli mostruosi. Dopo io mi sono rimasto una decina di minuti a parlare con Florentino Perez, lo guardavo come un po' da lontana, come se io venissi da Marte, e dicevo, ma come fa a dire certe cose? Adesso poi vediamo cosa riescono a cavare da questa. La sentenza sta arrivando, non so se è arrivata in questo momento, comunque nel pomeriggio dovrebbe arrivare. Ma cioè, l'errore è palese, certo. Eppure cercavano di rigirarsi la realtà, perché loro dicono, ovviamente sono caduti nel ridicolo, e quindi cercano di venirne fuori in maniera in modo ancora più goffo. No, esatto. dicevo Giovanni, c'è aria da Serutito da Madrid. Ma sì, anche se questa volta vogliamo dire che poi Benitez, poveraccio, c'entra qualcosa, no Filippo? Tu che conosci la struttura del Real Madrid, quante persone, almeno una, ci sarà pagata più o meno per fare quel lavoro lì? No, allora, il problema vero è che questa è una dittatura. Quindi allora, doveva farlo il Florentino. Esatto, doveva farlo, perché cosa ha fatto? Il direttore sportivo l'ha cacciato via, vi ricordate quando vanno via Valdano, perché Mourinho gli disse no, guarda, questo qua ce lo togliamo di mezzo, e lo tolse di mezzo. Dopodiché c'era Pardessa, l'altro ex giocatore, che più o meno faceva lì un po' mezzo segretario, mezzo, via, mandato via. È rimasto Butragueño, che sta lì, più o meno così. Il delegato, il team manager, Eccendo, che resiste da mille anni, però in realtà non è che si occupa poi in profondità di queste cose, e Rafa, prima della partita, è andato da centro, ma siamo sicuri, perché Isco era stato espulso, vi ricordate, nel classico, no? Sì. Quindi dice, ma Isco può giocare? Sì, tranquillo. E in effetti poteva giocare, ci avevano provato con Borja Mayoral, che era stato espulso in una partita di Coppa dei Giovani. Può giocare? Sì, può giocare, benissimo. Però nessuno si è ricordato di Cheryshev. Io ti dico che Rafa non c'entra niente. L'unica cosa che per me ha sbagliato è stata poi la conferenza stampa, dove lui, anche oggi, altra conferenza stampa, non ha voluto rispondere, non vuole dire niente. Quella sera la sera della partita era sufficientemente dire, scusate ragazzi, io non ne so niente, sono sconvolto come voi, certo. E adesso vediamo, valuteremo. E invece ha risposto male, voglio parlare della partita, ma che partita? Non c'è la partita. E non c'è neanche la Coppa del Re, perché no, Salvo Napoli, non so se hanno il principe del foro che riesce in qualche maniera, ma sembra, si parla veramente di un miracolo, insomma, cioè, il regolamento è chiaro. Cosa è successo? Questi hanno avvertito la federazione, ha avvertito il Villarreal, perché questo episodio succede a marzo, e hanno avvertito il Villarreal e basta, cioè la federazione ha fatto quello che doveva fare. Dopodiché se tu riprendi dal prestito un tuo giocatore e non ti preoccupi, perché poi il giorno dopo sui giornali c'era che era stato ammonito e quindi squalificato, per cui cioè, quanti giocatori non hanno preso? 6, 7, 5, adesso non mi ricordo. Controlli che non ci siano magagne, certo. No? Se danno 1000 euro a mio figlio che ha 12 anni, lo può fare lui tranquillamente. Certo, ma ci candidiamo anche noi, Anche, esatto. Ma no, senti, no. Ma questa storia del tifoso che dalla Galizia telefonava e mandava fax, a proposito di fax, alla sede del Real Madrid, perché aveva letto sul giornale che avevano convocato Cheryshev e voleva avvisarli che guardate che non potete farlo giocare. Sì, ma non c'è solo il tifoso. Io ti posso dire che l'altro giorno ero in radio qui a Radio Onda Cero, e il nostro, diciamo, il gente locale aveva parlato con Real Madrid in agosto e aveva fatto presente che c'era questa storia di Cheryshev. Quindi questo è che, cioè, arriviamo al punto che erano in tanti a saperlo di Cheryshev. Però al Madrid non se ne sono accorti, perché hanno altri pensieri, c'è la congiura della stampa, la congiura degli ultrasur, no, è tutto contro di loro, tutto il mondo è contro di loro. Hanno fatturato da 600 milioni e passa, però gli manca un milleurista, come lo chiamano qua, esatto, un milleurista che gli controlla i cartellini. Vabbè, mandiamo il curriculum, va. Mandiamo il curriculum al Real Madrid, Filippo, esatto. Ci mette la buona per quello, solo per poi Giovanni, poi per uno preciso io, cioè, se vuoi arrotondare, metto una buona parola con Florentino. Ci pensi tu, tuo amico Florentino Perez. Grazie Filippo, ciao Filippo Maria Ricci. Roberto da Roma, buongiorno. Buonasera a tutti. Curriculum anche per lei a Real Madrid, per controllare i cartellini. No, io chiamo soltanto per la Roma, sì. Sono tifoso da quando sono nato, sì. Sento tutti questi processi sulla Roma. La Roma sta male, escludiamo Garcia, cacciamolo via. Io vorrei solo ricordare due o tre cose, e forse nessuno ne ha parlato. Partiamo dal Barcellona. Il Barcellona era la partita più indicata per chi? Per Salah e Gervinho. Non ce li avevamo. si sono fatti male e non ci eravamo. Poi Bologna, va bene, non è una partita, diciamo che gli altri hanno giocato, e l'Atalanta, e con l'Atalanta abbiamo perso. Ma un processo alla Roma che sta a 4 punti dalla prima, si può giocare l'accesso, ma noi tifosi sessantenni, che la Roma ce la ricordiamo tranne quello squarcio di Viola o la Super Roma di Spalletti, ma se questo Garcia non si trova una Juve fantastica davanti, questo vince due campionati. Stiamo discutendo tutti, sento Renga, per carità, con tutto il rispetto, anzi il dottor Renga, che parla preparazione, non c'è il presidente, ma il presidente, ma perché ci deve stare il presidente? Beh, perché qualcosina conta, cioè presidente o comunque figure istituzionali e con poteri decisionali in un'azienda come la Roma contano. Poi Gervinho e Salah non c'erano col Barça ne hai presi 6. A Bologna c'era l'acqua, c'era per tutte e due, bla bla, stiamo qui a dire le solite cose che abbiamo detto, che ormai ripetiamo da settimane. Con l'Atalanta ha perso, cioè se si vuole, se va bene così, nessuno lo discute. Se invece vogliamo dibattere su questi temi, secondo me vale la pena anche farlo. Saluto e ringrazio Roberto Ungaro. Ciao Roberto, direttore di Riders. Volevo fare giusto due chiacchiere su due spunti. Il fratellino di Valentino che va in Moto2, ma sì, lo merita oppure no? Luca Marini. Beh, è un raccomandato. È il cognome importante e quindi fa del gran bene, si fa un gran parlare di lui. Se guardiamo i risultati, ha fatto un quinto nel campionato spagnolo, CEV. Diciamo che di lui non si parla, di un pilota velocissimo, certo ha un cognome importante. Tra l'altro bisogna anche dire che il team che lo gestirà, il team forward, ha avuto un po' di problemucci, perché il manager che gestirà questa squadra l'anno scorso è stato 2-3 mesi in collegio per problemi amministrativi, quindi insomma non è una bellissima immagine. Non dalle suore, precisiamo. No. Cose ancora poi da chiarire, definire, però sai com'è, insomma, non è proprio bellissimo. Quindi a livello di immagine, per una persona, un pilotino così importante con quel cognome, non è bellissimo andare lì. Poi è vero che comunque nell'ambiente, cioè ha 18 anni Luca, e a 18 anni suo fratello aveva già vinto un mondiale, sì, 97 col 125, ricordiamoci di Capirossi che vinse ancora minorenne, cioè i piloti che vengono fuori sono altri, diciamo che non ha la stoffa per diventare un vincente, poi magari sarò smentito, però nell'ambiente si dice questo. Senti, altra cosa, l'altra sera ero con Ringo, ben noto personaggio DJ eccetera, che tu conosci bene, educatista folle. Era il giorno in cui è stato ufficializzato il ritorno di Stoner alla Ducati, e Ringo faceva impazzito di gioia. Io ho detto: ma guarda che va a fare con la dottore. No, ma magari torna a correre, aspetta, vediamo. È stata una bella bomba, a fine stagione, che ha ravvivato un po'. Lui, pilota amato, stranissimo, pensiamo che ha rifiutato di correre quando si ritirò, ha rifiutato un contratto di 2 anni, 2 stagioni, 12 più 12 milioni da Honda. Lui era allergico al sistema Adorna e a Valentino, e Adorna che era Valentino dipendente, lui stava bene solo quando scendeva la visiera ed era in pista, era allergico e refrattario a tutto il resto. Ha preferito dedicarsi alla moglie, alla bambina, però quando sei un pilota ti rimane dentro, e quindi alla fine è sempre rimasto in gioco, si è ritirato nel 2012, ma l'anno scorso chiese a Honda, quando Pedrosa si fece operare al braccio, di correre ad Austin in Texas. Honda negò, perché non voleva creare problemi all'interno della squadra. E altra cosa interessante, quando lui si ritirò, Honda gli fece un super contratto per fare il tester, per far sì che lui non cadesse in tentazione di andare in altre squadre, perché Honda sapeva il suo potenziale, lo conosce bene, quindi l'hanno strapagato per evitare che potesse andare da altri. Vabbè, allora gli dicono di no, e lui, boccone amaro, che digerisce molto male. Suzuka corre la gara di endurance importante per Honda, cade per motivi tecnici non suoi. Quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e lui ha detto sì a Ducati, che ha fatto un colpaccio, bravissimi, furbi quelli Ducati, che riportano diciamo, in moto, rimettere in moto un personaggio così che, credetemi, fa paura. Il problema è che la sua guida è unica, quindi non è di riferimento per gli altri. Certo. Cioè lui può portare la moto veramente oltre il limite. Poi è bisogna vedere se gli altri sono capaci di guidare quello che è capace di guidare lui. Guareschi, che quando faceva con lo dottore, diceva: mi chiedono i tecnici di fare quello che fa lui. Lui in mezzo alle chicane, per esempio, dava un pestone sul freno dietro perché si aiutava a tirare sulla moto con quello. Il problema è che il genio è unico. Roberto, ti ringrazio. Grazie mille, Roby. Alla prossima. Ciao, Roberto. Ciao. Giovanni, ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica 17-19. Grazie a Giorgio De Luca, Andrea Roccabella e Giovanni Melchiori. Ciao a tutti. Arrivederci, ragazzi. Ciao.